Buona serata, benvenuti su Rock FM, la voce di Marco Garavelli ad accogliervi, a darvi il benvenuto su Rock FM con lo spazio di Hard & Heavy. Ogni sera dalle 20 alle 21, dedicato al mondo dell'hard rock, del metal in generale, con tante novità, diverse news e naturalmente anche diversi gruppi che andiamo a proporvi dal passato. Alcuni gruppi ben noti, altri magari meno noti e che cerchiamo di riporre e ripresentare a voi, quindi riporre alla vostra attenzione. Partiamo da un gruppo abbastanza conosciuto se amate il buon metal, anche se non hanno inciso tanti album. Si chiamano, visto che sono ancora in attività, gli Steel Heart, band americana, risale addirittura al 1990. Nella formazione c'è da segnalare il bravo cantante croato Miljenko Matijević. Il loro omonimo album d'esordio, uscito per la MCA nel 1990, arriva al numero 40 in America e anche in Svezia e vende più di un milione di copie. Purtroppo però, visto il periodo non favorevole a questo genere di musica, il secondo album, arrivato nel 92, non riesce a ripetere gli ottimi risultati dell'esordio. Solo in Giappone continuano ad avere un certo successo. Da segnalare, la sera di Halloween del 1992, durante un concerto a Denver, un grave incidente occorso al cantante Miljenko perché si arrampicò su una torretta delle luci sul palco, non era ben fissata e questa gli cadde addosso provocandogli diverse fratture al volto. A causa del lento recupero la band si sciolse nello stesso anno. Nel 95 Miljenko ricrea il gruppo con una nuova line-up e pubblica il terzo album Wait, e siamo nel 1996. Ad oggi anche l'ultimo album studio, perché Miljenko continua la propria attività di cantante solista sotto il nome di Mickey Steel fino al 2006, quando riforma di nuovo gli Steel Heart per alcune date dal vivo e si parla di un nuovo quarto album che a tutt'oggi non è ancora uscito. Di sicuro invece è uscito nel 1990 questo album bellissimo che vi consiglio, si intitolava come loro Steel Heart, sono delle ottime canzoni. Questo è il pezzo che apriva l'album, Love Ain't Easy, Steel Heart, nel nostro spazio di Hard & Heavy. album che vi consiglio di recuperare, risale al 90, però è stato stampato in CD anche in Italia. Fu album del mese per la rivista Burn giapponese. Come vi dicevo, loro sono molto quotati in Giappone. Steel Art, Love and Easy. Il lavoro venne prodotto da Mark Opitz, ma il produttore esecutivo fu niente poco di meno che Bruce Dickinson degli Iron Maiden, quindi aveva visto bene anche in questo caso. Passiamo invece alla prossima band, il gruppo più famoso e importante, visto che abbiamo parlato del Giappone, proprio del metal, dell'heavy metal in Giappone, e loro sono giapponesi. Sono tuttora in attività, pensate che la scorsa settimana è uscito il loro nuovo album che si intitola Metal Mad, che deve ancora essere pubblicato qua da noi. Si chiamano Ladness. Gruppo nasce addirittura nel 1981 dal batterista Munetaka Iguchi e dal famosissimo e più bravo chitarrista metal giapponese Akira Takasaki, dopo aver abbandonato la loro precedente band chiamata Lazy. Hanno aggiunto un bassista, un vocalist e la band in 3 mesi incide l'album d'esordio dal titolo The Birthday Hive. Dopo 4 album e un tour in Europa e in America destano l'interesse dell'Atlantic Records, che li mette sotto contratto, ed era una cosa piuttosto strana che una band giapponese viene messa sotto di metal viene messa sotto contratto per il mercato americano. Questo è appunto un evento internazionale. Viene così pubblicato anche in America il loro 5° Thunder in the East, che arrivò al numero 74 nelle charts Billboard americane, che gli valse di date di supporto ai Motley Crue nel tour americano dell'epoca. Per quanto riguarda la lineup, negli ultimi anni ci sono stati diversi cambi. Il più importante avvenne nell'89 con l'ingresso del cantante Michael Vescera, americano proveniente dagli Obsession. Dopo 3 album però abbandona il gruppo per entrare nei Rising Force di Malmsteen e si segnalerà come l'unico membro non giapponese ad aver militato nei Ladness. Allora, oggi ve li presento con un loro classico che si intitola Crazy Doctor, dal 4° album bellissimo. L'album si intitola Disillusion, uscito nel 1984. L'intro è lunghissimo, vi è un lungo assolo di chitarra, io ve ne presento una parte, poi partirà il motivo dal titolo Crazy Doctor. Qui la lineup è tutta giapponese, quindi non c'era Michael Vescera alla voce. Il pezzo si intitola Crazy Doctor, da Disillusion, Loveness. Oh! grande chitarrista, eh? Akira Takasaki, ho anche un paio di suoi album solisti, lui è veramente un manico. E il lavoro in questione, uscito nell'84, venne registrato, pensate, a Londra nel 1983, con il pezzo Crazy Doctor che apriva questo loro album Disillusion. Di loro, ripeto, esistono svariati album, visto che la band, come vi segnalavo, è in attività. La scorsa settimana ha pubblicato ancora un nuovo lavoro e magari in futuro vi presenterò anche, perché no, il Loudness dal vivo. Ne hanno pubblicati diversi di album live nel nostro spazio del venerdì. Cambiamo genere e andiamo ad una project band creata dal polistrumentista Jeff Cannata, uno dei top del tipo, possiamo paragonarlo a Paul Sabu per quanto riguarda il AOR e il pomp rock. Il gruppo si chiamava, questo progetto, Archangel, Arc separato Angel, ed ha avuto un ottimo seguito anche qua in Europa. È grazie ad un demo che ottengono un contratto per la pubblicazione di questo album su una sottoetichetta della Epic Sony Music nel 1983, a titolo semplicemente Archangel. Successivamente poi Jeff Cannata pubblicherà nel 1988 un secondo album, ma questa volta con il suo cognome Cannata. Per ritrovare un nuovo album a nome di Archangel bisogna attendere il 2002 con l'album Tamorok. Nel 2006 invece è uscito un altro album, ma a nome di Cannata. Questo comunque è un classico. Io vi presento il vinile, friggerà un po', del 1983. L'album è stato ristampato in Giappone in CD nel 1999. Il pezzo che vi propongo è il singolo, all'epoca venne preparato anche il video, realizzato il video di questo motivo, intitolato Tragedy, per il project di Jeff Cannata. Il gruppo in questione si chiama Archangel. profumano le note del vinile in questione, Archangel, il progetto di Jeff Cannata. Siamo nel 1983 con il pezzo Tragedy, che era il singolo, album classico del genere AOR. Passiamo al metal italiano, questa volta del passato. Spesso mi richiedete il metal italiano e, come ben sapete, se seguite lo spazio di Arden Devi, quelle che sono le novità, naturalmente le proponiamo tutte, almeno quelle che sono di ottima fattura, ma ormai è da anni che le band italiane si attestano su un'altissima qualità, a mio avviso. Molto spesso li ospitiamo, anzi la prossima settimana poi la proporremo nel mese di marzo, avremo un'intervista con i Kenos, un'altra band che uscirà tra breve con il secondo album di ottimo death metal, ma spesso andiamo anche a proporre i classici del passato, come così è stato con La Strana Officina, con i Vanadium, e questa sera con i Crying Steel, questa heavy metal band italiana di Bologna attiva negli anni 80 con alle spalle un EP e due album. Il gruppo nasce nel 1982, quando fu creato dal bassista Angelo Franchini e dall'ex chitarrista Alberto Simonini. Dopo aver partecipato ad una compilation di heavy metal italiano nell'83, pubblicano nell'84 l'omonimo mini LP, e oggi andremo a prendere in considerazione proprio questo raro prodotto, che gli permise poi di ottenere il contratto e pubblicare il primo lavoro, On the Prowl, del 1987. Seguono cambi di formazione, diverse partecipazioni a festival, fino al 2003, quando la band si riunì con la formazione classica. Successivamente scrivono, registrano nuove tracce, ne selezionano quattro per un demo che viene inviato a diverse etichette, e arriva il contratto con la My Graveyard, che lo scorso anno ha pubblicato il secondo album dal titolo The Steel Is Back. Da segnalare che lo scorso marzo è entrato in pianta stabile un nuovo secondo chitarrista, si tratta di Max Magnani, ex Midway, che sostituisce il cofondatore Alberto Simonini. Questo è il loro primo EP. Ci sono 5 pezzi, 2 sulla prima, 3 sulla seconda facciata, tutti firmati da Simonini, che era il chitarrista, alla voce Luca Bonzagni, Luca Ferri alla batteria, e poi abbiamo all'altra chitarra Franco Nipoti e Angelo Franchini, basso e accompagnamento vocale. La coproduzione è stata effettuata da Claudio Sorge, che saluto affettuosamente, nonché dagli stessi Crying Steel. Andiamo a proporre allora il pezzo che apre la B-side di questo vinile, visto che era un EP. Il pezzo si intitola Hero, Crying Steel. We'll be right back. heavy metal italiano con la formazione bolognese dei Crying Steel dal loro primo EP, era il pezzo intitolato Hero. E andiamo a chiudere la prima parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy, offerta come sempre da Mariposa Dischi, Corso Lodia numero 1 qua a Milano, e in scaletta il nostro autore Simone. Quest'oggi mi piazza il Chimera. Chimera, il progetto del tastierista italiano Daniele Liverani degli Empty Tremors e di un altro progetto che si chiama Genius. Questo è il terzo album a nome Chimera, uscito lo scorso weekend. Anche in questo caso abbiamo degli ottimi special guest, ovvero sia Dennis Ward, che oltre ad essere il bassista dei Pink Cream 69 è affermato produttore, ha dimostrato delle ottime doti di cantante, in effetti è il cantante di questo progetto. Formazione confermata, quindi, che oltre a Dennis Ward come cantante bassista vede Dario Ciccione alla batteria e Tommy Ermolli alle chitarre e naturalmente Daniele Liverani alle tastiere. Il pezzo che vi propongo è una ballad, l'album si intitola The Greatest Wonder, il pezzo è Love Has Been and Gone. inizio di seconda parte di Arden Devi nello spazio del martedì, replicato poi il giovedì, con questa band che arriva dalla Polonia. Sono un gruppo di 5 elementi, si chiamano Eternal Deformity e questo è il loro quinto album dal titolo Frozen Circus, dei quali questa sera vi ho proposto il pezzo d'apertura The Force of Your Art. Gruppo che nasce nel 93, l'album l'anno seguente effettua il... la pubblicazione dell'album d'esordio Forgotten Distant Time. Il loro sound all'inizio era un classico doom metal, ma album dopo album sono arrivati a mischiare vari generi, tanto che questo nuovo lavoro combina elementi gothic con altri più progressivi, molti parti di tastiera, cantato gutturale, eccetera. Il loro ultimo album in studio era uscito ben 6 anni fa ed ora arriva questo Frozen Circus, 8 brani in totale. Andiamo alla prossima band. Pubblicheranno lunedì prossimo il loro terzo album, che si intitola Here in North, e noi vi ho già proposto settimana scorsa un brano in anteprima. Il gruppo power metal tedesco si chiama Storm Warrior. Molto famosi nell'underground nazionali e composti da 4 elementi, uno dei quali, ossia il bassista Jens Leonard, milita anche negli Iron Savior. Gli Storm Warrior sono anche molto amici di Kay Hansen dei Gamma Ray, tanto che durante il Festival Hair Shaker di qualche anno fa hanno suonato insieme a lui ben 4 brani tratti da Walls of Jericho degli Helloween. Leader e fondatore del gruppo è il cantante chitarrista Lars Ramke. Dopo 2 demo nel 2001 ed un EP, arrivano all'anno successivo con un picture disc tramite Remedy Records. L'omonimo album d'esordio arriva nel 2002 e vede come produttori Kay Hansen e Dirk Schlachter dei Gamma Ray, album che gli valse anche la partecipazione al famoso Wacken Open Air Festival. Dopo un EP arriva nel 2004 il secondo album, Northern Rage, che gli valse la partecipazione all'album tributo agli storici Running Wild e soprattutto un mini tour di 3 date in Giappone di supporto ai connazionali Gamma Ray, dal quale hanno registrato anche un live uscito 1 anno e mezzo fa, mi ricordo di avervelo presentato. Finalmente arriverà il 3 marzo su etichetta Dockyard One questo nuovo terzo album, Here in North. Ci sono 10 brani più un intro mixate dall'esperto Pete Silk degli Iron Savior e Savage Circus, masterizzate dall'altrettanto esperto Tommy Hansen presso i suoi studi Jailhouse Studios in Danimarca. Un album consigliato agli amanti di Gamma Ray, Helloween, eccetera eccetera. Storm Warrior il loro nome, il pezzo si intitola Raganork, da Here in North. Li andiamo ad ascoltare insieme. We'll be right back. Le Metal News di questa sera partono parlando del gruppo americano dei Paramise, il cui stanno preparando il nuovo album, il cui titolo sarà Immortal, mixaggio curato dall'esperto Jakob Hansen. Tutto questo nel mese di marzo. Come vocalist ricordiamo che ci sarà Matt Barlow degli Eisdorf. Il Tyro Tyr, che dir si voglia, si intitolerà Land, il nuovo album per questa band delle isole Faroe. L'uscita è prevista per l'8 di maggio. Kenos, death metal band italiana, sta lavorando al terzo album, che si intitolerà Extortion, in uscita entro l'album. Saranno presenti alcuni special guest, quali Lorenzo De O dei Time Machine, Alex Del Vecchio, che ha già collaborato con Ian Pace e Glenn Hughes, e li ospiterò questa settimana per parlare del loro precedente album e del prossimo, intervista che manderemo nel mese di marzo. Extrema, altra band italiana, thrash metal band che suonerà all'estero di supporto al tour dei Death Angel. Per quanto riguarda le date italiane, saranno in aprile, il 12 al Fillmore di Piacenza, il 13 all'Alfeus di Roma, proprio con i Death Angel. Nevermore, pronto ormai l'album solista del cantante Warrell Dane, si intitolerà Prayer to the War Machine, uscita prevista il 29 di aprile. Stratovarius, piuttosto travagliato il nuovo album, che è un concept dal titolo Sana, del chitarrista finlandese Timo Tolkki. Non solo ha dichiarato qualche settimana fa che la borsa che conteneva il master con le parti vocali gli era stata rubata, ma ora ha reso noto anche che ha rescisso il contratto con l'etichetta Frontiers Record. In ogni caso, Tolkki fa sapere che l'uscita ufficiale dell'album è per il 3 di marzo. Dopo un paio di settimane, il chitarrista dei Metal Church, Jay Reynolds, ha lasciato la band americana per motivi personali. Attualmente non è stato scelto alcun sostituto. E parliamo invece di Steve Lukather. È stato pubblicato da poco su Frontiers Record questo suo nuovo album solista dal titolo Ever Changing Times. È stato pubblicato anche il singolo, nonché il video, che è proprio il brano che dà il titolo all'album e che abbiamo già in sottofondo, che andiamo ad ascoltare. Steve Lukather, ricordiamo, chitarrista dei Toto. Yeah. Change in Time, il pezzo che apre l'album è scelto come singolo e video per il nuovo lavoro da solista del bravissimo Steve Lukather, già chitarrista dei Toto. Andiamo alla prossima band che arriva dall'Inghilterra, anche se la cantante arriva dall'Ungheria. Si chiamano Tomera, dopo un anno e mezzo pubblicano il loro secondo album, il primo ve l'avevo presentato all'epoca. Loro presentano e propongono un gothic metal progressivo. I fondatori sono il bassista Lee Barrett insieme alla cantante Juliet Kiss, bella cantante appunto fuoriuscita dagli ungheresi Without Face, con i quali lei aveva inciso ben due album. Dopo aver completato la lineup, registrano nel 2005 un demo che riceve recensioni molto buone e gli fa ottenere praticamente il contratto con la Candlelight Records, che ne aveva pubblicato il loro album d'esordio dal titolo Transcendental. Ora è il turno di questo Delusions, che presenta 8 tracce molto lunghe, dalla durata di 7 minuti l'una. Cercheremo di proporla almeno un 5 minuti questo brano, che apre l'album, si intitola The Lie, Tomera, dal loro nuovissimo Delusions. sicuramente da ascoltare più di una volta, non facilissimo di primo acchito questo album dei Tomera, con influenze, abbiamo detto, gotiche, soprattutto nel cantanto della vocalist ungherese, e poi con molti inserti prog, a volte jazzati, altre volte decisamente più metal. Arriviamo alla chiusura del nostro spazio di quest'oggi con l'ultima band in programma. Si chiamano Made of Eight, uscito la scorsa settimana su AFM Records, questo album d'esordio per una nuova metal band ancora polacca. Quest'oggi ne abbiamo presentati due di band polacche. Loro arrivano da Varsavia, sono in quattro, un sound un po' similare a quello dei Children of Bodom. Leader del gruppo è il chitarrista 22enne Mikal. Stando a quanto segnalato dalla band stessa, l'album è stato registrato, mixato e masterizzato in una settimana, dal 6 al 12 gennaio dell'anno scorso, e quindi a metà ottobre dello scorso anno hanno ottenuto il contratto con la AFM Records, che ne pubblica questo album. Si intitola Bullet in Your Head. Bullet in Your Head è il titolo del pezzo che apre il lavoro che andiamo a proporvi, con il quale chiudiamo l'appuntamento di questa sera di Arden Daily. Un ringraziamento va al nostro autore Simone, al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, soprattutto a voi che spero mi seguite sera dopo sera dalle 20 alle 21 su Rock FM con Arden Daily. Un grazie a voi, vi lascio con i polacchi Made of Eight. A domani, ciao!